Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. URI, Unione Radiofonica Italiana. 1RO, stazione di Roma. Lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo. Pensate, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ben 90 anni fa, oggi alle 9 di sera, quindi alle 21, proprio quando inizia Effetto Notte, tutte le sere, dal lunedì al venerdì, del 6 ottobre, quindi alle 21 del 6 ottobre 1924, la radio italiana fece sentire per la prima volta la sua voce nell'etere. L'allora Unione Radiofonica Italiana, così si chiamava, entrò quindi quella sera nella casa delle italiane e degli italiani, almeno di quei pochi che avevano la radio allora, con questo annuncio che avete appena sentito dalla voce di Ines Viviani Donarelli. Quindi auguri a tutta la radio, ci siamo fatti gli auguri, vi ricordate, già venerdì per il nostro compleanno di Radio 24, 15 anni fatti sabato 4 ottobre, ma il compleanno della radio nel senso complessivo di mezzo in Italia è stato appunto il 6 ottobre del 1924, 90 anni fa, quindi auguri a tutta la radio italiana ma anche a tutta la radio mondiale, al mezzo in sé, a questa rivoluzione che è stata con la sua invenzione. Bene, adesso invece ritorniamo proprio sulle questioni quotidiane di oggi, attuali, con tante notizie, perché la notizia più recente è che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il governo a votare la fiducia domani, a porre la fiducia, la questione di fiducia domani al Senato sulla riforma del lavoro, una cosa che ha creato ancora maggiore tensione nel PD. Dovrebbe esserci tra poco un esponente della minoranza del PD, perché la tensione è sempre molto forte. E poi varie altre notizie, voi lo sapete, avete per i vostri commenti sempre due canali, che sono o la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure c'è come sempre il numero dei messaggi SMS al 349-238-6666. Allora partiamo con la giornata. Riforma del lavoro, dal Consiglio dei Ministri sia la fiducia sul Jobs Act, la minoranza PD avverte, ci saranno conseguenze politiche, per domani Renzi convoca i sindacati. Siria, l'ISIS ha issato la bandiera nera a Kobane, proseguono gli scontri tra miliziani e combattenti. Il sinodo sulla famiglia, il Papa dice ai vescovi: parlate chiaro e ascoltate, apertura sui divorziati ma resta il no alle unioni gay. Nobel per la medicina, gli scopritori del GPS e del cervello, il premio all'americano Okifi e ai coniugi norvegesi Moser. Formula 1, le condizioni di Bianchi sono gravi ma stabili e per la partita Juve-Roma Garcia commenta: rappresenta un danno per il calcio. Quindi dall'esito del Consiglio dei Ministri, vi dicevo, sulla riforma del lavoro. Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'esecutivo, cioè il governo, a porre la questione di fiducia in Senato sul disegno di legge lavoro che verrà presentato domani in Senato, lo si apprende da fonti governative. Poi è arrivato un aggiornamento, una notizia che aggiorna questa: il governo sta mettendo a punto il maxi emendamento che non è stato deciso ancora da presentare, sul quale eventualmente sarà posta la fiducia che oggi il Consiglio dei Ministri ha autorizzato. Quindi in ballo c'è anche un maxi emendamento, quindi qualcosa, questo testo un po' in corsa viene cambiato prima della fiducia domani al Senato. Fiducia, nel caso in cui il governo optasse per questa soluzione, sarà richiesta dell'esecutivo direttamente in aula al Senato. E domani a Palazzo Chigi rappresentanti, ci saranno i rappresentanti del lavoro, quindi delle parti sociali, diciamo i sindacati sono stati convocati, e poi ci saranno le imprese. La leader CGIL Camusso dice però: siamo pronti alla mobilitazione, perché adesso vuole vedere appunto che cosa viene fuori da questo maxi emendamento. Poi, come vi dicevo, ne parleremo e sentiremo anche un autorevole esponente della minoranza PD. Intanto si continua a parlare del TFR in busta paga su proposta di Renzi, col vice ministro dell'economia Morando, che ha detto: se si fa questa cosa non deve esserci un euro in più di tasse sul TFR. Ma quanto vale, quanto potrà valere questo TFR in busta paga nel caso? tra 40 e 82 euro al mese se andasse in porto il provvedimento appunto proposto da Renzi, e quanto hanno calcolato gli esperti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Secondo le previsioni della Fondazione entrerebbero nelle buste paga dei lavoratori circa 40 euro al mese in caso di TFR erogato al 50%, circa 62 euro con un TFR erogato al 75% e circa 82 euro al mese in busta paga in caso di TFR erogato però al 100%. Intanto facciamo le nostre riflessioni, passiamo alle notizie dall'estero. Dopo giorni di violentissimi scontri tra curdi e miliziani dell'ISIS, lo Stato Islamico issa la bandiera nera su una collina della zona orientale di Koban, che è la cittadina siriana al confine con la Turchia. Il giornale Times intanto rivela che la Turchia avrebbe scambiato con l'ISIS oltre 180 jihadisti in cambio di 46 diplomatici di Ankara e 3 iracheni rapiti nei mesi scorsi. Il governo di Londra giudica credibile questa notizia. Non so come la giudichi Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore, che è stato a Koban. Ora sei in Turchia, Alberto? Sì, ciao, sono Alberto. A Istanbul in questo momento, dove si stanno radunando i militanti del partito curdo HDP per protestare contro quella che sembra ormai l'inevitabile caduta di Koban. Senti, ma la Turchia, ci si può chiedere, certamente in queste vicende non c'è, è difficile che ci sia un gioco pulito, trasparente, no? Qual è la strategia della Turchia? Perché dicevo di questo scambio con l'ISIS, no? In cambio di 48 diplomatici di Ankara e 3 iracheni, ha liberato 180 jihadisti. Ma la strategia della Turchia ormai è passata molto chiara anche nella mozione votata dal Parlamento giovedì scorso. Cioè la Turchia ha autorizzato un intervento militare contro ogni minaccia ai suoi confini, ma tra le minacce citate c'è il PKK del curdo turco, che viene considerato un'organizzazione terroristica, mentre l'ISIL, cioè il califfato, viene nominato genericamente, ma neppure menzionato specificamente, tra le altre organizzazioni terroriste. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente il governo Erdogan ha intenzione sì di intervenire, ma soltanto per allontanare i curdi dal proprio confine, evitare che questi facciano una zona autonoma o indipendente, e che poi se c'è anche il califfato con cui venire a scontrarsi va bene, ma il primo obiettivo di Erdogan è già stato chiarito, ha già detto per noi l'obiettivo, il target è il regime di Bashar Assad, il califfato è secondario, ma questo è comprensibile perché la Turchia ha fatto una politica filo sunnita in questi anni, cioè in qualche modo ha cercato di imporre la propria influenza o di estendere la propria influenza in Medio Oriente, quindi il califfato da un certo punto di vista non è un vero e proprio nemico per la Turchia, è un nemico secondario, sono i curdi quelli che rappresentano un problema per i turchi, la chiamiamo realpolitik, chiamiamola realpolitik. Certo che i curdi vengono massacrati a Koban, e questo di fronte all'esercito, al secondo esercito più potente della NATO, che sta a 500 metri su una collina. Che è quella della Turchia. Grazie Alberto Negri, grazie, buona continuazione. Grazie a voi. Grazie. E ora dall'ISIS, dalla Turchia alla Nigeria, uomini del movimento islamico integralista Boko Haram, vi ricordate lo stesso movimento che ha rapito tutte quelle studentesse in Nigeria, hanno decapitato 7 persone oggi nel nord-est della Nigeria, lo riferiscono testimoni e un responsabile locale. L'attacco è avvenuto a Ngambi, nello stato di Borno, una delle regioni più di frequente obiettivo di Boko Haram. Il ministro spagnolo, parliamo di Ebola adesso, la ministra spagnola della sanità Anna Mato ha confermato in serata la scoperta nel pomeriggio di oggi in Spagna di un caso secondario di contagio dell'Ebola all'ospedale Carlos III di Madrid. In una conferenza stampa Mato ha detto che la persona infetta, un'infermiera spagnola, è stata in contatto con malati di Ebola. E poi in primo piano oggi c'è anche il sinodo che si è aperto in Vaticano sulle sfide attuali alla pastorale familiare. Papa Francesco, aprendo i lavori, ha raccomandato di parlare chiaro, molteplici temi in discussione, dalla richiesta di riconoscimento delle coppie gay alla violenza in famiglia, ma il tema dei divorziati e risposati, se devono accedere o meno al sacramento della comunione, ha già preso il sopravvento. Poi ne parliamo con un famoso teologo italiano che è Vito Mancuso, ne parleremo più tardi a effetto notte. Occupiamoci adesso invece di giustizia alla vigilia del nuovo tentativo di eleggere domani 2 giudici della Consulta. Il Parlamento. Parlamento ci riprova per la 17ª volta, con poca fiducia ma con una consapevolezza, quella che, scaramanzia a parte, l'elezione dei giudici della Consulta sia più che mai urgente per sbloccare il resto degli impegni. Le Camere tornano a riunirsi alle 13, il tandem proposto resta Violante Caramazza nonostante la bocciatura del 2 ottobre, nonostante la resistenza di tutti i nodi politici. Per superare i veti incrociati si fa più forte in questo momento la richiesta di chi vorrebbe nomi nuovi senza la casacca dei partiti. Resta poi ancora sospesa anche l'ultima tessera per il rinnovo del CSM, che dovrà farsi carico pure delle più recenti scintille nella Procura di Milano. Alfredo Robledo, dopo l'allontanamento dal pool anticorruzione, ha chiesto infatti un'audizione urgente per difendersi dalle accuse sulla gestione dei fondi sequestrati durante l'inchiesta sui derivati. Scrissi anche al procuratore Bruti Liberati, oltre ad Equitalia, sui 170 milioni, replica il procuratore aggiunto, secondo cui fu il GIP ad ordinargli di nominare il custode giudiziario di quel tesoretto. Tutta materia per Palazzo dei Marescialli, che attende ancora un componente, come la Consulta, alla vigilia della 17ª votazione. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Ci sono novità al processo a Grosseto sulla vicenda della Costa Concordia. La scelta della data in cui Dominika Cermortan potrebbe essere interrogata dagli avvocati di parte civile potrebbe essere condizionata, quella data dell'udienza, dagli impegni in politica a cui la ballerina ospite di Schettino quella notte si sta dedicando. Pensate, sarebbe impegnata politicamente nel suo paese, in Moldavia. Ma passiamo ai Nobel. Oggi è stato assegnato quello per la medicina. Hanno scoperto le cellule nervose che costituiscono il sistema di posizionamento nel cervello, un sistema che permette di orientarci come avessimo un GPS biologico interno alle strutture cerebrali e ci consente di avere costantemente le coordinate spaziali del luogo in cui ci troviamo. Il Nobel alla medicina è andato così all'americano 75enne John O'Keefe della University College di Londra e alla coppia norvegese composta dalla 51enne May Britt e dal 53enne Edward Moser, entrambi neuroscienziati della Norwegian University of Science and Technology di Trondheim. I coniugi norvegesi sono la quinta coppia sposata a conquistare un Nobel e May Britt è l'undicesima donna a vincere il Nobel per la medicina. Ora i tre scienziati si divideranno il riconoscimento pari a 8 milioni di corone svedesi, oltre 880.000 euro. Metà andranno ad O'Keefe e metà ai coniugi Moser. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Devo dire che tra l'altro la scoperta di queste Nobel per la pace mi fa un po' sorridere, importantissima, ma è proprio una cosa che a me manca, questo GPS, devo dire, nella testa in buona parte. Posso veramente viaggiare per tutto il mondo, uno mi dice dove devo andare, posso guidare per ore, ma io non ho questo GPS, mi piacerebbe parlare con questo Nobel per la pace. Ma siamo in chiusura con lo sport. Sono molto triste per quanto accaduto ieri a Bianchi, un ragazzo che è nato con noi, a cui pensavamo come nostro pilota del futuro. Parliamo di Formula 1, di quello che è successo al pilota Bianchi, e queste sono parole del presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo commentando l'incidente a Jules Bianchi avvenuto ieri a Suzuka. È in condizioni molto gravi ma stabili, così un portavoce della Federazione Internazionale dell'Automobile ha descritto la situazione di Jules Bianchi, il pilota 25enne della scuderia Marussia coinvolto in un grave incidente durante il Gran Premio del Giappone di domenica. Bianchi è ricoverato al Mia General Hospital di Okkaichi, dove ha subito un delicato intervento al cervello per ridurre un ematoma. Solo domani però l'ospedale diffonderà un bollettino medico. Intanto sono giunti in Giappone i genitori del pilota, mentre domani mattina dovrebbe arrivare anche il manager del giovane, Nicolas Todd, e il professor Gerard Sayan, chirurgo e fondatore dell'Istituto del Cervello. Il medico, amico del presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile, Jean Todt, era intervenuto anche in occasione del grave incidente sugli sci di Michael Schumacher dello scorso dicembre. Intorno a Bianchi e i suoi familiari si è alzata una barriera di riserbo, osservata sia dai membri della scuderia Marussia, sia dai pochi rappresentanti della Formula 1 che hanno avuto accesso al reparto di terapia intensiva dove è ricoverato il pilota. Intanto su Twitter la fidanzata del giovane, Camille Marchetti, ha lanciato un messaggio di sostegno: tu sei il più forte. Miriam Corgia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi il Giro d'Italia, è stato presentato il 98esimo Giro d'Italia, che si concluderà come da tradizione a Milano, soprattutto per festeggiare l'Expo. E c'è il calcio, dopo ci occuperemo della partita Juve-Roma, diventata, pensate, assurdamente bisogna dire, anche un caso politico. Per il momento ci fermiamo qui, perché così aggiorniamo chi viaggia e poi comincio naturalmente a raccontarvi le notizie attraverso gli ospiti in diretta. Vediamo appunto se riusciamo a raggiungere Civati, ci facciamo un po' dire quali potrebbero essere effettivamente queste conseguenze politiche minacciate dalla minoranza PD davanti alla questione della fiducia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi di nuovo a voi, vedo che a quinta colonna su Rete 4 c'è Renzi, instancabile Renzi. Vogliamo sentire un attimo che cosa dice? Vedo prima di che la situazione è un po' meglio del passato, ma chi becca queste immagini qui non è che si preoccupa delle statistiche. Chi subisce le conseguenze è drammaticamente. Credo che il conduttore abbia mostrato un video di una rapina ripresa da una telecamera di sorveglianza. Noi ci sono due questioni. Uno, noi dobbiamo far sì che quelli che becchiamo, quando vengono condannati, poi restano dentro. Perché il problema vero che c'è è che noi abbiamo parlato per tanti anni di riforma della giustizia e noi politici ne discutiamo, facciamo tutte le discussioni vere, importanti, non sto minimizzando. Però poi che succede? Succede che quando un cittadino, a me capitava da sindaco, vede ripassare per la stessa strada, anche, guardi, le dico una banalità del debito, uno scippatore che aveva visto il supermercato e che poi è anche condannato per direttissima, però riesce, l'impressione è che a quel punto non ci sia più, si dice, certezza del diritto, certezza della giustizia. Quindi primo tema, secondo, la giustizia deve garantire che chi è colpevole paga fino alla fine. Secondo tema, c'è questa vicenda che lei diceva delle forze dell'ordine. Ecco, sta parlando di sicurezza adesso Renzi, però il tema in questo momento, quello proprio più caldo, è un altro. E ve lo riassumo con le notizie. Ok, la fiducia sul Jobs Act da parte del Consiglio dei Ministri, Renzi sfida la minoranza PD e i sindacati sono convocati per domani a Palazzo Chigi, ma per un'ora sola. Camusso protesta e lo prende un po' in giro ricordando la canzone, appunto, un'ora sola ti vorrei. E poi bandiere nere dell'ISIS a Koban, la cittadina siriana al confine con la Turchia. Ankara scambia dei prigionieri, quindi la Turchia scambia dei prigionieri con dei diplomatici. Intanto ci sono 3 decapitati in Egitto, purtroppo ormai questa è diventata l'usanza diffusa. E poi primo caso in Ebola, di Ebola in Europa, è successo in Spagna, infettata un'infermiera, il virus fa strage intanto in Sierra Leone, 121 i morti in un giorno. Juve-Roma, il match dei veleni diventa un caso politico, vi dicevo, poi ne parleremo. Il Papa e i Vescovi del Sinodo, parlate chiaro e ascoltate, questo dice sul Sinodo straordinario sulla famiglia. E poi alla medicina, il Nobel per la medicina, gli scopritori del GPS del cervello. Dicevamo la riforma del lavoro, quindi il governo voleva accelerare su questa legge, non si era placato intanto lo scontro che va avanti da diverso tempo all'interno del PD, ma non solo, anche con i sindacati sul Jobs Act, e il Consiglio dei Ministri poco fa, insomma un'ora fa o poco più, ha autorizzato l'esecutivo, quindi il governo, a porre la questione di fiducia in Senato domani sul disegno di legge lavoro. La minoranza del PD da tempo chiedeva un confronto, nelle ultime ore ha chiesto che non fosse posta la fiducia. Diversi esponenti della minoranza PD, tra cui per esempio Fassina, Damiano, avevano detto che ci sarebbero state conseguenze politiche nel caso fosse stata posta la questione di fiducia. Però vedo un'agenzia di poco fa che riguarda una dichiarazione di Alfredo Dattorre, che è un deputato della minoranza PD, anche lui, che dice: la fiducia sul Jobs Act è una scelta sbagliata, un segnale di insicurezza del governo. Sarebbe giusto consentire un confronto di merito al Senato, ma è chiaro che prevarrà la responsabilità di non far cadere il governo. Quindi io saluto l'onorevole Pippo Civati, autorevolissimo esponente della minoranza PD. Buonasera Civati. Buonasera. E quindi si minacciavano conseguenze politiche, ma da quello che dice Dattorre in realtà poi insomma si rinserrano un po' le righe. No, beh, Dattorre dice una cosa clamorosa pensando allo stato interno del PD, cioè dice che voteranno sì, almeno l'area che Dattorre rappresenta, cioè l'area bersaniana, soltanto per non far cadere il governo. Questo non significa evidentemente che condividano né le modalità né il merito di quello che Renzi sta proponendo. Questo quindi non è solo un segnale di debolezza, ma dal punto di vista del governo e della qualità dei nostri provvedimenti è un atto scellerato, non ho altro modo per definirlo. Tra l'altro alcuni senatori per propria iniziativa non parteciperanno al voto, non so quanti saranno perché non è un complotto il nostro, abbiamo chiesto 1000 volte che ci fosse l'occasione per discutere, Renzi aveva garantito che ci sarebbe stata tutta la trasparenza a questo dibattito e tutto l'atteggiamento di disponibilità che poteva riservarci. Di fatto mette la fiducia su una legge delega, per cui non fa in fretta, perché la legge delega è uno strumento lunghissimo nella sua evoluzione, in compenso chiude tutte le porte al dibattito e al confronto parlamentare, perché poi fortunatamente per la Democrazia Italiana non c'è solo il PD, ci sono anche altre forze che forse vorranno partecipare anche loro. Ma lei Civati quindi che farà? Guardi, io ho l'unica fortuna di non essere senatore, altrimenti già domani prenderei una decisione che è diversa da quella della Torre e non parteciperei al voto in aula, al voto di fiducia. Mi dispiace, ma c'è un limite a tutto, non si può ricattare un intero Parlamento sulla base del fatto che non può cadere il governo, non si può dire sempre di sì, non si può accettare tutto anche quando è pasticciato come questa norma sull'articolo 18, non si può continuare a pretendere fedeltà da persone che sono state candidate su un altro programma elettorale. Renzi non è nemmeno in Parlamento, le assicuro che votare contro quello che si è promesso ai cittadini non è divertente. Sentiamo un attimo Renzi ancora, Quinta Colonna. Siamo disponibili a sbloccare gli scatti, però bisogna anche smetterla con certi atteggiamenti discutibili che hanno avuto alcuni dei sindacati delle forze di polizia, hanno minacciato di fare lo sciopero. Ah, parla ancora di sicurezza. Civati, onorevole Civati, mi dice la cosa che la convince meno di questa riforma del lavoro? Ma che si basa in realtà su una struttura concettuale abbastanza falsa. Non c'è l'abolizione di tutti i contratti precari, il determinato alla Poletti per esempio rimane, ci sarà ovviamente lo strumento a cui ricorreranno quasi tutti quelli che vogliono un lavoro a basso costo, diciamo così, per capirci. Non è vero che l'articolo 18 è quella cosa che ci rimane da 40 anni, perché è stato appena modificato dalla Fornero, la quale dice peraltro che non capisce perché si intervenga in modo ideologico e non tecnico per eventualmente verificare cosa non ha funzionato, cosa si può migliorare. C'è una delega vaghissima, che è già un fatto, come dire, molto sbagliato. La delega deve avere dei contenuti molto precisi, altrimenti capisce il Parlamento in realtà non dà una delega, il governo che la dà a se stessa. Questo è fuori dalla Costituzione, secondo me, e come tale insomma non può piacermi. Quindi, come vede, sono questioni che riguardano il merito, l'approccio culturale, perché Renzi ha voluto fare una battaglia contro la sinistra che mi sembra surreale, e in generale anche sul merito delle proposte che si fanno. Poi, se guardi, ne aggiungo un'altra per gli ascoltatori di Radio 24, che io vorrei sapere anche quali sono le coperture in legge di stabilità, perché dire che gli ammortizzatori sociali sono per tutti e che sono strumenti universali ha una ricaduta sul piano dei conti che deve essere molto chiara e che avremmo voluto vedere prima di discutere così, in modo così scellerato, lo ripeto, di articolo 18, senza discuterne, perché poi nella delega non c'è nemmeno. Civati, lei ha detto la fortuna di non essere senatore, perché altrimenti domani si sarebbe, non avrebbe votato, ma che farà poi un po' più in là? Cioè, il rischio di scissione, che è una cosa che si paventa da tanto tempo, non ci sarà, lei non se ne va, Civati, no? Dal PD. No, io non me ne vado, però insomma non capisce che l'imbarazzo è forte, c'è un problema di più che di tattica politica o di grandi strategie, c'è un problema di coerenza, insomma, che inizia a pesare non solo sulla mia personale figura di parlamentare, ma anche su quella di tanti altri. C'è uno strappo rispetto allo stesso programma che Renzi aveva presentato al congresso l'anno scorso, lei si ricorda, perché avremmo occasione di parlarne, quindi, certo. Se lui avesse fatto il congresso dicendo che aboliva l'articolo 18, che i sindacati è meglio chiuderli, che no, perché lui domani li ascolta per un'oretta, poi no, passa subito alle parti di Confindustriali, insomma, forse non avrebbe stravinto come ha fatto. Lo dico con sorridendo, perché non penso che sarebbe cambiato di granché il risultato, però almeno avremmo promesso quello che avevamo intenzione di fare davvero. Civati, in chiusura, perché so che lei ha un impegno importantissimo, ancora più importante della politica, le chiedo, per farla sorridere anche un po', che ne pensa della partita Juve-Roma? So che lei è juventino, Io a un certo punto ho ricevuto un messaggino che diceva che sembrava Tangentopoli, perché rubavano tutti. In verità io, che sono un tifoso molto così cauto, non sono sfrenato, speravo che si potesse fare senza rigori, soprattutto a cominciare dal primo che non c'era, quello di Maicon, forse ce n'era uno prima di Marchisio, e poi è stata tutta una compensazione che secondo me è sfuggita di mano all'arbitro. Come juventino è molto onesto, molto corretto, ma ha sentito che ci sono state delle interrogazioni parlamentari addirittura su questa partita, le sembra? Sì, a me sembra un po' sproporzionato, anche se in questo mondo in cui tutto si tiene, tutto è globalizzato, in effetti un rigore che non c'era può cambiare il valore in borsa di una società. e questo è, forse non è del tutto vero intanto, però forse fa innescare un tifo anche tra i banchi del Parlamento. Accidenti. I romanisti sono giustamente incavolati perché la partita era aperta e perché quando incomincia si perde anche il gusto della sfida, insomma ieri sera a un certo punto si sembrava un processo del lunedì più che una partita della domenica. Grazie Pippo Civati, buona settimana intanto. Grazie a voi. Grazie, a presto. Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, spessissimo ospite, graditissimo qui a Effetto Notte. Hai sentito allora cosa è successo? Il governo che porrà la questione di fiducia domani al Senato, quello che ha detto Civati, anche il fatto che stiano lavorando a questo maxi emendamento. Che sarà questo maxi emendamento? Sì, buonasera. Ciao Alberto. Ciao. Stanno lavorando a un compromesso formale, diciamo così. Stanno mettendo a punto un maxi emendamento su cui chiederanno la fiducia, in cui di articolo 18. Sostanzialmente non si parlerà perché la formulazione resterà quella della Commissione e verrà tutto demandato ai decreti attuativi. Questo servirà a fare rapidamente la votazione sul maxiemendamento, come spera il governo, entro domani sera, in modo che Renzi possa l'indomani, cioè mercoledì a Milano, al vertice europeo, esibire un primo sì del Parlamento alla riforma del Jobs Act, in modo da arrivare ad avere un ulteriore margine di credibilità fattuale verso i partner europei. Perché lo hai ricordato, perché dopodomani, mercoledì, a Milano c'è il vertice europeo sul lavoro, no? E lui vuole andare lì con già ho fatto questo passo ulteriore. No? Sì, esatto, certo. Per lui l'articolo 18 è moneta sonante nella derogabilità del quadro macroeconomico dei conti pubblici, è evidente. E siccome la strategia che ha impostato fino adesso nel rapporto con i partner europei è: io non vi dico che sforo i termini, ma voglio recuperare e utilizzare tutti i margini che il Fiscal Compact mi dà, perché sono il primo che fa le riforme, perché le riforme servono al Paese, è un atto di dire il Senato ha già votato il sì al Jobs Act, è esattamente in questa strategia. Sentiamo un attimo ancora cosa dice Renzi, sempre a Quinta Colonna. No, faccia come versarci. No, scusa. È che mi interessa più il suo pubblico. Dicevo il mio pubblico. No, dicevo noi qui. Insomma. Lei male non sta, giustamente, no. Perché fa bene il suo mestiere. No, lasciamo perdere. Quelle mamme sì, mi interessano un po' di appunto. Più. Allora, qual è il concetto? Il concetto di fondo del TFR è che a me non piace molto l'idea... Ah, ecco, parla del TFR. Non mi piace moltissimo l'idea che per forza lo Stato debba impedirti di spenderli. Io sarei più per la libertà, lei dice addirittura la libertà di decidere se prenderlo o no, però insomma, se noi possiamo dare un po' più di fiducia e qualche soldo in più in busta paga, io penso che questo garantirebbe una migliore qualità della vita, perché è inutile che questa ragazza arrivi e magari tra 20 anni, 30 anni, anche se a te Alberto Rioli, quando abbiamo parlato giorni fa, non ti convinceva questa storia del TFR in busta paga, e oggi Confindustria ha detto no, non ci piace, ma più che non convincere me, non convinceva, se non mi ricordo male, i messaggi, gli sms tantissimi degli ascoltatori. Sì, quando... perché il TFR culturalmente ha un'idea di risparmio forzoso e differito su cifre consistenti che servono poi a gestire, che so, l'acquisto della casa dei figli o momenti di particolare difficoltà della famiglia, non sono un piccolo tesoretto che uno sa che a un certo spendere, punto effettivamente prima dicevamo dei calcoli fatti dai consulenti del lavoro, non erano grandi cifre, no, così mensilmente. No, questo è stato illuminante, vai da 42 euro se smobiliti 50 a 82 se utilizzi tutta la quota disponibile. Forse insomma. Meglio una gallina domani, dici. Insomma, gallinella, sì. Un polletto almeno. Va bene Alberto Rioli, ti lascio lavorare alla chiusura del Sole 24 Ore allora. Grazie a voi. Ciao Alberto, grazie. Adesso qualche ascoltatore o ascoltatrice, intanto ringrazio Mirka, mi dice che effettivamente non ho il GPS nel cervello, nonostante quella sia stata la scoperta di questi premi Nobel, perché ho detto il Nobel per la pace e non per la medicina. Quando vi raccontavo dei titoli ho detto la medicina, poi forse saranno tutte queste notizie così sanguinolente, cruente, di uomini che uccidono, che decapitano, che mi ha fatto venire questo desiderio di pace. Intanto fermiamoci un attimo, tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi. Abbiamo appena sentito Pippo Civati, abbiamo parlato di Jobs Act, del fiducia che il governo intende porre domani al Senato, ma c'è Renzi ancora qui a Quinta Colonna su Rete 4, c'è il conduttore che parla del debito. Metto a verbale. Sentiamo. Che questa è una frase del debito. Ma quello si sa, non te ne aspetta vabbè. Del debito è un provocatore. Sì, vabbè, aspettiamo la domanda e poi torniamo a parlare. Mentre c'è qualche messaggio vostro al 349-238-6666, poi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, sempre a vostra disposizione. Dicevo, i commenti anche a quello che ha detto Civati. Lidia dice: per Civati non se ne può più dei loro contorcimenti, quindi all'interno del PD e della minoranza. E poi dice invece Clotilde: ma di che parla il fenomeno di giustizia quando... Ah no, questo parla di Renzi, prima a Quinta Colonna. È il suo governo a votare lo svuota carcere mettendo in circolo i soliti delinquenti, provvedimento criticato da Gratteri che sarebbe dovuto essere ministro della giustizia, cassato da Re Giorgio, dice Clotilde. Per invece un altro ascoltatore, Civati è solo invidioso rispetto a quello che dice al contrasto con Renzi e con soprattutto la riforma del lavoro. Adesso però sto per passare a un altro argomento con il prossimo ospite, ma vi riassumo, come succede dopo ogni pausa, le notizie principali di oggi. A partire dalla riforma del lavoro, naturalmente, dal Consiglio dei Ministri sia la fiducia sul Jobs Act, la minoranza PD avverte ci saranno conseguenze politiche, per domani Renzi convoca i sindacati. Siria, l'ISIS ha issato la bandiera nera a Kobane, proseguono gli scontri intanto tra miliziani e combattenti. Il sinodo sulla famiglia, il Papa dice ai vescovi parlate chiaro, ascoltate, aperture sui divorziati, ma pare che resti il no alle unioni gay. Nobel per la medicina agli scopritori del GPS e del cervello, il premio all'americano O'Keefe e ai coniugi norvegesi Moser. Formula 1, le condizioni di Bianchi sono gravi ma stabili, e poi la partita Juve-Roma di cui parleremo dopo. Dicevamo quindi di questo sinodo straordinario sulla famiglia, che, di cui si era già avuta notizia mesi fa, ne avevamo anche parlato, e adesso ci sono queste giornate di lavoro, sono partite ieri, domenica, in corso in questi giorni insomma in Vaticano. Il sinodo dei vescovi, cioè il luogo in cui i vescovi di tutto il mondo si incontrano tra loro attorno e con il Papa che li convoca con l'istrumento di consultazione, insomma di collaborazione su questioni molto delicate. Si tratta appunto di questo sinodo sulla famiglia straordinario. Al centro della discussione c'è la famiglia come bene comune della società, definita così, però il dibattito è già entrato nel vivo con gli argomenti più spinosi, quelli della comunione ai divorziati risposati e alle coppie gay. E allora coinvolgo Vito Mancuso, buonasera Mancuso, grazie del collegamento, di essere qui. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Teologo, docente di storia delle dottrine teologiche all'Università degli Studi di Padova ed editorialista del quotidiano La Repubblica, autore di diversi saggi. L'ultimo, uscito proprio fresco da pochi giorni, è Io amo, piccola filosofia dell'amore. Mancuso, c'è amore in questo sinodo? E poi sembra che sia una sfida tra tradizionalisti e progressisti, tra questi ultimi dovrebbe essere annoverato il Papa, no? Tra i progressisti. Ma non è che sembra, non ci sono dubbi che è una sfida tra tradizionalisti e progressisti, come lo è stato il Concilio Vaticano II 50 anni fa e come direi è tutta la storia della Chiesa in questa prospettiva. Forse a considerare bene le cose non c'è evento dell'umanità, dalla politica all'economia alla cultura, che non sia uno scontro tra una forza che vuole andare avanti e una forza che vuole conservare. Fa parte della dinamica delle cose, il pensiero si muove così, la storia si forma così e anche la Chiesa non è da meno in tutto ciò, riproduce la medesima logica del mondo, delle cose del mondo. Quindi dicevamo temi delicati, la famiglia al centro, però il Papa Francesco è noto anche per, appunto, come diceva lei, il fatto di essere progressista e il fatto anche di dire non chiudiamoci al mondo, sentiamo, ascoltiamo anche i tormenti del mondo, e chiede di parlare con chiarezza i vescovi, dice qualsiasi sia il vostro pensiero, parlate con chiarezza, dite esattamente quello che pensate, di esprimersi con paresia, cioè con la libertà di dire tutto e ascoltare con umiltà. Questa è stata la sua premessa. Questa è una premessa, a mio avviso, straordinaria. Guardi, io non sono papista, non sono tenero, diciamo, in generale con le posizioni pontificie per partito preso. però devo dire che questa modalità di richiamare la coscienza dei vescovi e dei teologi alla chiarezza, alla paresia, che è la parola appunto che il Nuovo Testamento, nel greco classico del Nuovo Testamento, utilizza, richiamare tutto questo mi sembra assolutamente essenziale, perché i problemi sono enormi e se si bada più all'aspetto diplomatico e meno all'aspetto contenutistico, se si bada più appunto alla diplomazia, a non guardare le cose per se stesse ma alla propria carriera o ai propri giochi politici, è del tutto evidente che i problemi non si risolvono. In ogni caso, questo sinodo, a mio avviso, lo scrivevo anche oggi su Repubblica, ha davanti a sé due compiti importanti. Primo, quello di vagliare l'effettiva leadership di Papa Francesco, che gode un seguito enorme nel mondo, diciamo tra i fedeli e non solo tra i fedeli, tra l'opinione pubblica di tutto il mondo, forse vincerà persino il premio Nobel per la pace, di sicuro è uno dei candidati, no? In questa prospettiva. Quindi gode tantissima leadership, tantissimo seguito nel mondo, ma quanta di questa leadership del Papa è reale anche all'interno delle gerarchie ecclesiastiche? Quanti dei cardinali elettori che l'hanno eletto un anno e mezzo fa sarebbero disposti oggi a seguirlo su questa, a rieleggerlo da un lato, e sono disposti a seguirlo in questo passaggio dalla chiesa della cattedra alla chiesa ospedale da campo? Questa è una grande questione alla quale al termine del sinodo probabilmente qualche elemento di risposta in più ci sarà. E poi c'è ovviamente la questione, diciamo così, contenutistica, che riguarda sì la famiglia. Certamente la famiglia e i temi, l'unione gay, i rapporti prematrimoniali, la contraccezione, insomma questi e altri temi più caldi, sì queste cose, ma in realtà è proprio il rapporto della Chiesa cattolica intera con il mondo contemporaneo che è in gioco. E quindi si tratta di valutare se la Chiesa cattolica sarà in grado o meno di compiere quel tragitto di accoglienza del mondo contemporaneo che il Concilio Vaticano II 50 anni fa ha iniziato e che però non è stato compiuto. Il Concilio Vaticano II ha iniziato un grande cambiamento e la Chiesa oggi, quando parla di morale sociale, di problemi legati, diciamo, alla dimensione politica, alla dimensione economica, insomma quando si occupa della storia, la Chiesa oggi è credibile, grosso modo, riesce a coinvolgere le energie migliori della coscienza contemporanea. Quando al contrario la Chiesa cattolica parla dell'etica individuale, della sessualità, insomma della bioetica, insomma delle questioni legate alla natura, ecco che la Chiesa cattolica non riesce più a essere credibile. Quindi abbiamo una Chiesa a due velocità: da un lato appunto capace di coinvolgere le energie migliori, dall'altra sostanzialmente tale da far tirar giù alle persone, prima ancora che i preti parlino, la tapparella del cervello. Ma quindi questo sinodo riuscirà a sincronizzare queste due diverse velocità, Mancuso? Siamo qui a vederlo. Quello che a me pare evidente è che il Papa lo vuole fare. Mi pare evidente che il Papa insiste su che cosa? Sul passaggio dalla Chiesa della legge alla Chiesa della misericordia. E se si guarda la Chiesa della misericordia, che poi vuol dire la Chiesa che guarda le situazioni concrete, la Chiesa che ascolta le situazioni concrete delle persone nelle loro storie, nelle loro esistenze, se si guarda questo, che cosa avviene? Che in primo luogo non c'è più la legge, non c'è più il sabato, per riprendere le parole del Vangelo, ma c'è la misericordia da un lato e le persone concrete dall'altro, e questo sarà naturalmente il passaggio che consentirà alla Chiesa di compiere il progetto iniziato da Giovanni XXIII, dell'aggiornamento globale della Chiesa cattolica. Il Papa lo vuole, riuscirà a farlo, sarà effettivamente in grado di far passare la sua linea? Lo vedremo, ma non alla fine di questo sinodo, ma alla fine del sinodo dell'anno prossimo, perché questa è solo la prima puntata, questo è un sinodo straordinario, l'anno prossimo di questi tempi ci sarà un sinodo ordinario e al termine di questo lo vedremo. io, se dovessi scommettere qualcosa, sarei sostanzialmente per un sì tiepido. Qualche cosa si cambierà, i sacramenti ai divorziati e risposati verranno in qualche modo concesso, mentre per quanto concerne il nodo fondamentale della morale sessuale, cioè la messa in gioco delle scelte dottrinali delle umane vite, a mio avviso questa Chiesa con questi vescovi, nonostante Papa Francesco, non è ancora in grado di prendere le posizioni coraggiose che auspicava il Cardinal Martini, per esempio, di totale revisione dell'umane vite, e quindi ci troveremo a un guado, insomma, saremo a metà strada. Per alcuni aspetti ci sarà un cambiamento, per altri aspetti la dottrina tradizionale continuerà a sussistere, e quindi la Chiesa Cattolica non compirà ancora, a mio modo di vedere, quel tragitto completo che il Vaticano II aveva iniziato. Sarebbe un peccato, almeno dal mio punto di vista, e penso anche dal suo. Intanto grazie Vito Mancuso, grazie, buona continuazione. Bene, buona serata. Grazie. Aggiorniamo adesso chi viaggia e poi ci sono altri temi, vediamo se riusciamo a far sentire ancora un altro pezzetto di Renzi dopo che sta parlando, si agita, lo vedo dopo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Direi che ve ne dico in pochi secondi in realtà, perché ve l'ho già ripetuto varie volte, poi ho qui un ospite, un collega che ha partecipato oggi a un vertice qua a Milano europeo, e quindi cominciamo dall'ok alla fiducia sul Jobs Act data dal Consiglio dei Ministri. Renzi sfida la minoranza PD, abbiamo sentito prima della minoranza Civati qui a Effetto Notte, e poi convoca per domani i sindacati, ma solo per un'ora. Bandiere nere dell'ISIS a Kobane, cittadina siriana al confine con la Turchia. Ankara, capitale turca, scambia dei prigionieri con dei diplomatici appunto turchi, quindi c'è questo rapporto un po' ambiguo della Turchia con l'ISIS, se prima l'abbiamo un po' spiegato. Primo caso di Ebola in Europa, infettata un'infermiera spagnola, e poi il Papa ai vescovi del Sinodo che dice parlate chiaro e ascoltate, ne abbiamo appena discusso, e ancora il Nobel per la medicina agli scopritori del GPS del cervello. Europa 24 notte. Dicevo, c'è qui il collega Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Roberta. L'ho detto bene la R di Sergio Nava? Un po' più accentuata, forse, ma andava abbastanza bene. Un po' flebile bene. È stata. Che è stato oggi, dicevo, al vertice europeo informale. Sono tutti informali qui, perché Milano quelli non è a Milano. Una città dove... No, sono... beh, arrivano anche formali. La settimana prossima ci sarà l'ASEM con i leader asiatici, e c'è dopo domani la conferenza europea sul lavoro. Ci sarà anche Angela Merkel, atteso. Caspita, beh, è un vertice ancora molto misterioso, ancora neppure si sa a che ora comincerà, e è veramente un vertice strano questo, ci sarà dopo domani. Segretissimo. Ci dirai, però oggi ce n'è stato un altro, parliamo di quello sull'energia, no? Esatto, energia e ambiente, si sono riuniti sia i ministri dell'energia sia i ministri dell'ambiente. Ovviamente il tema della crisi ucraina e quindi anche delle forniture di gas dalla Russia all'Ucraina e all'Europa in primo piano, e abbiamo chiesto proprio al commissario europeo all'energia Günther Oettinger delucidazioni su cosa sta avvenendo. Sentiamo cosa ha risposto Oettinger a Radio 24. Oettinger ha detto: prepariamo un nuovo incontro trilaterale formale fra i ministri ucraino e russo e le compagnie Naftogaz e Gazprom. Alcuni giorni fa a Berlino abbiamo fatto una proposta per un protocollo vincolante a completamento degli attuali contratti di fornitura di gas. Due punti centrali, secondo Oettinger, le norme sui vecchi conti in sospeso e le forniture di gas da ottobre a marzo. Su questo, dice, abbiamo sul tavolo una proposta per un prezzo da $385 ogni 1000 metri cubi fino a 10 miliardi di metri cubi di gas che potrebbe coprire parte del fabbisogno. Entrambe le parti, Russia e Ucraina, hanno fino a domani, quindi martedì sera, per presentare le proprie controproposte, dopodiché contiamo tra pochi giorni di organizzare un nuovo trilaterale. Quindi questo l'ultimo aggiornamento su questa infinita crisi del gas, anche perché appunto ci sono stati accordi poi disdetti, insomma si sta cercando molto lentamente di arrivare all'interno di una più vasta crisi Russia-Ucraina a un accordo sul gas. E proprio su questo, Roberta, ha parlato anche il vice ministro allo sviluppo economico Claudio De Vincenti, che ha parlato proprio degli stress test che sono stati fatti per capire se in caso di un aggravarsi comunque della crisi del gas l'Europa ce la può fare. Sentiamo. come Consiglio Energia abbiamo ritenuto necessario, insieme con la Commissione, predisporre comunque le misure necessarie a gestire in sicurezza eventuali emergenze. Da questo punto di vista abbiamo potuto constatare che siamo in grado di gestire bene situazioni di crisi, di eventuali interruzioni di forniture, sia limitate nel tempo, un mese, sia più lunghe, anche fino a 6 mesi. Questi sono stati gli stress test proposti dalla Commissione. E quindi, appunto, come diceva il vice ministro De Vincenti, fino a 6 mesi ce la potremmo anche fare, insomma, poi bisognerà vedere, speriamo si risolva prima. Dicevamo, insomma, non moltissimo tempo, giusto per l'inverno. Potremmo sfagare l'inverno, potremmo farcela, sì. In brevissimo c'erano anche i ministri dell'ambiente, perché tra gli obiettivi del Consiglio Europeo, esatto, il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti, tra gli obiettivi del Consiglio Europeo di fine mese c'è proprio quello di raggiungere un pacchetto globale europeo su clima ed energia. Sentiamo al proposito cosa ha detto Galletti. C'è stata la volontà di tutti i paesi ad arrivare al prossimo Consiglio del 23 ottobre dei presidenti con una risposta chiara e precisa che va in questa direzione, cioè l'Europa vuole essere ambiziosa nel dare una risposta ai problemi sui cambiamenti climatici. È chiaro che lo scambio di vedute odierno mette in evidenza quanto sapevamo già, che ogni paese ha condizioni strutturali diverse e ha oggi condizioni economiche diverse. Si tratta quindi di conciliare queste diversità fra tutti i paesi europei. Mi sembra che ci siamo detti tutti allora per questo vertice, caro Sergio Nardi. Si è concluso e dopodomani tocca al lavoro, e lì veramente ci sarà da vedere cosa verrà fuori di concreto. E intanto l'ora, vediamo se viene fuori l'ora in cui ci sarai, dove, e poi ce ne parlerai. Grazie Sergio Nardi. Grazie a voi. Ciao Sergio. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Adesso invece con Dario Ricci vorrei capire cosa è successo con questa partita. Magari qualcuno di voi non l'ha seguita, altri l'hanno seguito, tra Roma e Juventus, in cui ha vinto la Juventus. Però si dice, i critici, la Juventus ha ottenuto dei rigori che non meritava. È diventato insomma un caso politico tra bengala, sparati, insulti, cose. Che è successo? Schiaffi, Dario Ricci. Oh, cara Roberta, dovessi raccontarti adesso, nei nostri pochi minuti, tutta Juventus-Roma, non basterebbe forse lo speciale di 3 ore che ieri abbiamo dedicato all'evento, quindi soprassederei sulla nuda cronaca. Sì, soprassediamo. Tornerei invece a quella che è l'attualità, perché chiaramente le polemiche nate dagli errori, soprattutto dalle indecisioni dell'arbitro Rocchi, oggi se è possibile sono ancora più vive di ieri. Si è arrivata all'interpellanza parlamentare, lo strumento sempre a portata di mano di onorevoli che evidentemente magari in queste ore non sono molto affaccendati, diciamo. Così, sorprendentemente, ma insomma, il PD Miccoli e Forza Italia e il forzista Rampelli, quindi completamente bipartisan questa proposta, hanno preannunciato 2 interpellanze parlamentari proprio in merito all'esito della partita, agli errori dell'arbitro Rocchi che in sostanza hanno di fatto favorito la Juventus. E hanno di fatto favorito, quindi? Di fatto il risultato è 3-2, quindi ha vinto la Juventus. Poi sulla natura di questi errori, in molti casi impercettibili al centimetro, in altri casi al millimetro, in altri casi ancora, vedi il terzo gol di Bonucci, invece giustificati pienamente al regolamento, si può discutere all'infinito e lo faremo sicuramente. Senti, poi quando avremo più tempo anche parleremo della richiesta anche da parte di Tavecchio, no? Il presidente della FIGC, su questa cosa di cui si discute da anni, della moviola in campo di telecamere, cosa sono, che dovrebbero riprendere, l'arbitro dovrebbe decidere dopo aver sentito coloro che consultano la videocamera. Questa è una ipotesi rispetto alla quale già la FIFA, attraverso il numero 1, il presidentissimo Blatter, ha già aperto, ha accelerato la promessa, ma Blatter è in campagna elettorale, seppure non si vede un suo avversario credibile nella corsa alla rielezione, però si sa che in campagna elettorale non solo Blatter è prodigo di promesse. Tutti sono prodigi di promesse, per cui è un un percorso già avviato, bisognerà vedere se basterà nel calcio italiano, perché poi sicuramente faremo un po' di dietrologia sull'arbitro chiamato a decidere attraverso la TV. E non finisce più, però qui dobbiamo finire. Grazie Dario Ricci, noi ci sentiamo tra poco.